Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Mi hanno suggerito di lavorare con una terapista sessuale. Pronto, sono Cheryl. Parleremo un po' e quando sarà pronto inizieremo a fare degli esercizi per risvegliare il corpo. Santa madre di Dio, che cosa sono gli esercizi per risvegliare il corpo? Ho avuto l'ultima ragazza a 17 anni. Poi il mio corpo ha smesso di cooperare. So cosa fare, cioè a te. Ma io non riesco più a sentire. Ciao Marco Brian. I soldi sono lì sulla scrivania. Sì, lo vedo. Questo non è il modo giusto per iniziare. Già, non lo è. Ricominciamo? Inizierai ad ascoltare. Questo è in assoluto il tema più difficile da affrontare quando si parla di disabilità. O perlomeno nel nostro paese è un tema assolutamente tabù. La sessualità del disabile. Ora, il disabile è una gamma vastissima di esseri umani, va dalla persona che ha dei problemi di tipo motori, di tipo fisico, alla persona che ha problemi di tipo relazionale, di tipo psichico. E tutte queste persone, fra un'infinità di diritti basilari, e penso che sia una condizione unica nel nostro paese, vedere persone ammalate di SLA che fanno lo sciopero della fame davanti ai palazzi istituzionali per vedersi assicurato il diritto basilare alla sopravvivenza. Quindi mi sembra quasi ridondante parlare di questo tema, ma ne parlo cogliendo un'occasione che mi dà il pretesto di parlarne, perché vi dico e vi assicuro che è estremamente difficoltoso riconoscere a una persona disabile istituzionalmente i diritti fondamentali di avere una vita decorosa. Figuriamoci se può essere posto in un paese così bigotto come il nostro anche il suo diritto ad avere una vita relazionale, una vita sessuale, che è una prerogativa che qualsiasi essere umano può tranquillamente assicurarsi. Ma una persona che ha difficoltà di muoversi nello spazio, di relazionarsi con altre persone, è impedimenti ancora maggiori di tipo fisico, di tipo psichico, è ancora più difficoltosamente orientabile in questa direzione. In Italia vedremo nelle sale cinematografiche The Sessions, forse a febbraio del 2013. Questo è un film che ha sbancato all'ultimo Sundance Film Festival negli Stati Uniti, è presentato oggi al Festival di Torino. È un film molto particolare, è un film che sicuramente sarà candidato agli Oscar, ma se ne parla molto poco. L'ha parlato il venerdì di Repubblica nel suo ultimo numero. È ispirato alla storia vera di un giornalista e un poeta californiano che è morto, Marco Brian, che ha passato la maggior parte della sua vita in un polmone d'acciaio, solo che ha quasi 40 anni, confidandosi, questa è la trama del film che rispecchia comunque una realtà, confidandosi con un prete, con il suo padre spirituale, dice: io sono ancora vergine e voglio provare questa esperienza dell'amore fisico. E naturalmente il buon prete, e qui si apre la prima scandalosa vicenda irraccontabile del nostro paese, capisce e decide che per quell'essere umano è giusto avere una relazione sessuale. Come fa ad avere una relazione sessuale una persona nel polmone d'acciaio? Deve rivolgersi a una terapista sessuale, che nel nostro paese è inesistente, soltanto l'idea che possa esistere, ma una signora di 50 anni, dignitosissima, che ha un bagaglio professionale tale che può permettere a una persona disabile ad avere un'esperienza sessuale. Immagina te stesso all'età di 6 anni, in colpe lui di aver preso la polio. Dimmi com'è. Cheryl è la persona più meravigliosa del mondo. Stay with me, let's just breathe. Dimmi qualcosa di te. Sono una persona riservata, ho una vita privata. La terapia riguarda te. Grazie, grazie. 800 24 0024. Guardate, questa non è una trasmissione a senso unico, una trasmissione, come tanti mi scriveranno tra poco sugli SMS, dedicata soltanto a chi soffre un problema di disabilità. È una grande occasione per tutte le persone che ci ascoltano, per finalmente parlare con serenità del diritto che avrebbe qualsiasi persona di avere una propria libera sessualità, svincolata da condizionamenti, da convenzioni sociali, da obblighi istituzionali, dalla grande cappa di quello che dovrebbe essere un grande occhio di chi tutto guarda dall'alto e giudica. Può esserci, può non esserci, per chi ci è una chance in più per vivere appieno la propria vita, ma è giusto considerare la sessualità come una delle tante possibilità che ha l'essere umano per esprimersi e per avere felicità. Parlarne per una categoria che ha minor possibilità di accesso a questa esperienza, secondo me aiuterà anche gli altri. Ripeto, 800 24 0024. Sei a posto? Hai bisogno d'altro? No, va bene. Mi scusi, avete parlato di quello che Blake può fare? Sì, sì. Nell'email. Certo. Bene. Io allora vado. Aspetto di sotto in macchina. Non ti piace quello che ti sto facendo? No, no, è che non sono abituato a essere toccato così. Voglio dire, sono toccato tutto il tempo da mio padre e dai fisioterapisti, ma non è lo stesso. Questa è una clip presa da una serie televisiva, Il diario di un squillo per bene. È un'altra situazione, ma di cui è giusto, che è giusto porre questa mattina sul piatto delle nostre domande. È un padre che ha un figlio disabile, un figlio in età in cui i ragazzi normalmente cercano una loro dimensione sessuale che fa parte della loro esperienza di vita. Il ragazzo è su una sedia a rotelle, quindi non può pensarci da solo, e il padre quindi lo accompagna da una ragazza, una professionista dell'Eros, che con particolare delicatezza aiuta questo ragazzo ad avere questo tipo di esperienza. Mi rendo conto, in un paese in cui non abbiamo ancora sdoganato e serenamente affrontato il problema della prostituzione, figuriamoci se possiamo parlare della terapia sessuale, ma vorrei separare le due questioni. Qua non si parla di affrontare il problema se è giusto o non è giusto, è lecito o è legale che i disabili ricorrano alle prostitute perché non hanno possibilità di avere altre relazioni. È molto più ampio lo spettro. E innanzitutto vi pongo un problema: una persona che ha un figlio disabile, come deve occuparsi anche di questo aspetto della serenità del proprio figlio o della propria figlia? Deve sedarlo, deve tenerlo isolato, deve evitargli di avere questa esperienza? O, come in alcuni paesi come la Svizzera, l'Olanda, in Olanda addirittura è passato dal Servizio Sanitario Nazionale, in alcuni casi esistono delle terapiste, come fosse un fisioterapista che ti fa una riabilitazione alla spina dorsale o un massaggio alla cervicale, e si occupa di te anche per darti serenità dal punto di vista sessuale. Emanuele Iannini, buongiorno. Buongiorno, ben ritrovati. Emanuele Iannini è un docente di sessuologia medica all'Università dell'Aquila, è una delle persone che tratta la sessualità come una disciplina della medicina e non semplicemente e solamente, unicamente, come una delle tante espressioni da sottoporre allo psicanalista, allo psicologo, al sessuologo, all'antropologo culturale, allo stregone, al consigliere, al maestro di vita e via dicendo. Qual è il tuo punto di vista, Emanuele, rispetto a questo problema? Ma dunque, il punto di vista è quello dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che è molto chiara da questo punto di vista. La salute sessuale è un diritto di ciascun individuo. E questa dichiarazione, che in realtà è difficile come dire, esprimersi in maniera contraria, perché è diciamo, qualcosa di quasi lapalissiano, questa dichiarazione in realtà è fondamentalmente dedicata proprio a queste situazioni, cioè alle situazioni dove la sessualità è sostanzialmente negata o da una società che reprime, perché attenzione, nel tema della disabilità c'è anche un fortissimo tema di repressione sociale, voglio dire, i manicomi non sono un ricordo troppo lontano, ma c'è anche come una specie di invito a riconoscere questi aspetti come assolutamente naturali, come assolutamente parte del, esattamente come mangiare, come dormire, né più né meno. Naturalmente però questo non ci fa dimenticare che la sessualità prevede la presenza appunto di un'altra persona, ed ecco quindi che dal punto di vista, come dire, scientifico medico, l'assistente sessuale si colloca come un intervento, posso dirlo, doveroso, non come dire opzionale, ma assolutamente doveroso. Allora, quando io parlo di assistente sessuale, parlo di qualcosa che non esiste assolutamente nel nostro paese, ma la figura in altri luoghi, in altri paesi, in altre civiltà, esiste e come è preparata, come è formata e come si presenta? Perché vorrei subito fare la differenza fra la prostituta, a cui può ricorrere naturalmente sia un disabile come una persona perfettamente abile, e l'assistente sessuale. Ma dunque, prima di tutto, in moltissime realtà ci sono dei veri e propri corsi che aiutano la gestione di una sessualità che tra l'altro scivola su dei contenuti di emotività, sensazioni, di sentimenti. Sto parlando proprio della terapista, dell'assistente sessuale, che sono di una estrema intensità. Che può essere anche un terapista, io dico, lo dico in generale, perché la figura è più facile definirlo così. Il film parlava di una terapista femmina, può essere anche un uomo. Hai ragione, però ecco, questo è sacrosanto, ma ci sono hai colto un aspetto che è una ombra in qualche modo di questo quadro, che è abbastanza solare in altri mondi, non nel nostro, ma in altri mondi. E l'ombra è costituita, sono due ombre fondamentali. Una è quella della sessualità femminile e del corrispettivo, cioè del assistente sessuale maschio, che non è così scontato e non è così facile per tutta una serie di motivi che sono di ordine biologico e che sono di ordine culturale, come il contrario, cioè il portatore di handicap nei confronti dell'assistente sessuale femmina. E questo è il primo tema sul quale riflettere, perché non ci sono delle risposte universali. Il secondo tema, che è forse quello più scottante di tutti, è quello dove veramente abbiamo da fare grandi dichiarazioni politicamente corrette e poi in realtà poche risposte dal punto di vista pratico, è il tema della disabilità, come dire, cognitiva, della disabilità mentale, che è diverso dalla disabilità fisica. Mentre per la prima, per la seconda, cioè la disabilità fisica, tutto diventa molto semplice, tant'è vero che comunque c'è un atto di volontà preciso e dichiarato, certo, come protagonista del film. A un certo punto decide. Esatto, il film racconta proprio questa storia, ripeto, tra l'altro una storia molto bella, una storia che tra l'altro mi fa impressione perché la sto vivendo con un paziente, un ragazzo, insomma una persona di una quarantina d'anni, quindi per modo di dire un ragazzo, che di sua sponte, una persona di queste persone che sono state cerebrolesi alla nascita e quindi con una grave lesione motoria, una bellissima testa, ma ha grandissime difficoltà nel muoversi, che ha deciso di incontrare per la prima volta il sesso attraverso una prostituta che anche in Italia sotto e in maniera molto come dire silenziosa ci sono anche persone che si dedicano a questo, e che mi ha riportato una felicità di questo incontro che, devo dire la verità, mi ha riempito l'anima. Fermati un attimo, Emanuele. Giuseppe, buongiorno. Ascoltatore. Buongiorno Nicoletti. Pronto? Sì, l'ascolto. Buongiorno Nicoletti, io ho 42 anni e da 30 anni praticamente sono disabile in seguito ad un incidente che mi ha tolto, non mi ha tolto niente, nel senso, io ora sono bradicinetico, cammino, faccio tutto ma lentamente e cammino con il bastone, però questa società probabilmente non è portata a sopportare persone che ragionino, che scrivono 3 libri e però non abbiano le caratteristiche usuali del figo bestiale, no? Quindi vada al punto, Giuseppe. Ecco, io praticamente sono obbligato da molti anni a servirmi da queste signore professioniste che cercano di darmi ciò che non troverò mai da loro. Io cerco l'amore, però loro mi danno giustamente solo quello che possono darmi. E sinceramente lei trova persone che hanno una particolare attitudine a occuparsi di disabilità, o diciamo va dove normalmente potrebbe andare ogni persona? No, vado dove normalmente potrebbe andare chiunque, perché non so io chi possa essere un assistente sessuale Io non ne ho mai visto in Italia, sinceramente, non ne conosco di queste. E ne sentirebbe il bisogno avere persone specializzate, diciamo, che non siano vagamente persone che si prostituiscono, ma specializzate in un rapporto sessuale che abbia un suo valore anche terapeutico, oltre che di semplice incontro. Sarebbe molto bello se ci fosse questa figura, sarebbe ancora più bello se fosse più facile anche per le persone con lieve disabilità trovare un amore, trovare una persona con cui condividere le gioie quotidiane, le delusioni, le cose, il teatro, il cinema. Lei sta parlando di una solitudine di tipo affettivo e relazionale di cui prendiamo senz'altro atto, ma oggi vorremmo tenerla preciso e focalizzato sull'elemento della terapista sessuale. Graziella. Intervenga adesso. Sì, Graziella. Pronto? Eccomi, Graziella, sì. Niente, praticamente è già stata risposta alla mia, siete già intervenuti sull'argomento che, di cui chiedevo, cioè la vista dalla parte femminile, questo problema, se è un problema parlarne in termini rivolti verso il disabile uomo, ancora più grossi problemi limitazione nel discorso femminile, ma vedo che lo state affrontando, quindi la mia domanda... No, ma lei diciamo è toccata da questo problema, ne ha esperienza? No, assolutamente neanche attraverso familiari. Però lei si poneva il problema, per una donna è ancora esatto, più difficile. Cioè, perché come sempre il problema quando si parla di sesso è più visto come problema maschile, no? Ma è indubbio che valga lo stesso identico problema dentro, che poneva questa mattina sia per uomini che per donne. Certo. Mi rendo conto che esiste già... La soluzione per chi ha delle disabilità è più facile se è maschio. Per la donna è sicuramente... Diciamo, se ci fermiamo alla semplice e unica sfera sessuale, certo, per l'uomo esiste già un apparato storico esatto, organizzato, per la donna è un po' più difficile. Massimiliano esatto. Olivieri, buongiorno. Massimiliano Olivieri è un autore di un blog occhiodellanima.it, si occupa di turismo accessibile e ultimamente anche di sessualità e disabilità. Ci seguirà fino alla fine della trasmissione perché è la persona che ha affrontato in maniera più concreta e coerente questo problema. Racconta la tua storia innanzitutto, Massimiliano. La mia storia, da dove devo partire? Non so, presentati. Vabbè, io di quello che mi occupo principalmente è il turismo accessibile, lo faccio da diversi anni. Io sono ho la distrofia muscolare da quando ero piccolo, quindi non cammino dall'età di 2 anni. E fino all'età di 25 anni anch'io brancolavo nel buio a livello di relazioni e sessualità. E sono stato in quel periodo con un paio di escort, solo che poi dai 25 anni in su sono stato più fortunato con l'arrivo del web, di internet, ho dato modo alla mia parte interiore, diciamo, di svilupparsi di più e di presentarsi di più agli altri, e ho sfruttato questa mia dote magari nel parlare, nelle conoscenze personali, nell'essere romantico. Cioè diciamo che la relazione in rete abbassa le differenze di ogni tipo, sociale, sì, mentale, quindi ancora di più per un disabile è facile farsi una rete. Tu hai creato una rete specializzata nelle relazioni tra disabili? Allora, io partendo dalla trasmissione di oggi faccio una premessa, sentendo anche l'intervento del signore di prima. Innanzitutto è chiaro che l'ideale per ogni persona, disabile o non disabile, è avere amore e sesso insieme. Certo, soddisfazione quindi, a 360 gradi. Certo, è tutta un'altra cosa, diciamo. Però, quindi io sono partito da questo ideale, creando il sito loveability.it, in cui all'interno ho voluto raccontare le molte storie che ci sono tra persone disabili che invece sono state fortunate, hanno avuto relazioni con persone non disabili, sono fidanzate, sono sposate, eccetera, eccetera. E in più ho voluto in qualche modo dare una vetrina a tutti coloro che si vogliono esprimere, perché la cosa più complicata è farsi conoscere, riuscire a far capire quello che siamo agli altri, dare una possibilità di esprimersi e di poter conquistare anche l'altro sesso in qualche modo. Si abbatte il pregiudizio iniziale di una persona disabile, che uno la vede, dice ma questa è una persona che ha problemi. Attraverso la rete uno può dare subito il meglio di sé, farsi conoscere. Sì, in effetti la mia funzione è stata questa. Quindi lo faccio con questo sito che si chiama lovability.it. E poi però io ho sempre pensato di non essere al centro del mondo, e penso che nessuno creda di se stesso, tranne qualche megalomane, di essere al centro del mondo. E mi sono detto, magari quello che vale per me non vale per un altro, quello che può mancare a me può mancare un altro, eccetera, eccetera. E ho sentito il sessuologo prima, volevo dire una cosa, secondo me, anzi, spero che mi contatterà perché mi aiuterà in questa mia... Allora, senti, Massiliano, fermo un attimo, perché non ti voglio interrompere mentre esprimi il tuo concetto. Mi dispiace. Non importa, sta tranquillo. Lo sapevo che sarebbe successo. Piangere non serve a niente. Tanto è qualcosa che non riuscirò ad avere. Chi dice che non la puoi avere? Mi dispiace. Non preoccuparti, va tutto bene. 800240024, questo è un dialogo preso da un telefilm di un ragazzo disabile con una signora che si occupa della sua sessualità. Che questa trasmissione abbia diviso metà il pubblico lo trovo un risultato incoraggiante. Vi leggo due messaggi. Nicoletti, ho acceso Radio 24, di cui sei una delle vergogne. Questo argomento è devastante, come sei tu del resto. Invece un altro messaggio: complimenti per il programma, per la prima volta sento parlare di questo argomento senza alcun falso moralismo. Poi mi scrive su Facebook, sul profilo Facebook di Melog Radio 24, un ascoltatore, mi dice: ma vorrei sapere se queste persone debbano essere volontari. Solamente attraverso il volontariato si ridurrebbe il rischio di confusione con atteggiamenti differenti come la prostituzione e si connoterebbe eticamente la prestazione. Non capisco come la prestazione di un assistente sessuale debba essere etica e quindi non retribuita, quella di chi si occupa di un'unghia incarnita deve essere in realtà contribuita. Stavo parlando con Massimiliano Ulivieri, autore di un blog occhiodellanima.it che si occupa prevalentemente di turismo accessibile e di sessualità e disabilità. Massimiliano, vediamo se riusciamo a inquadrare questa figura che abbiamo soltanto allucinato ma mai descritto. Cosa dovrebbe essere l'assistente sessuale? Allora, l'assistenza sessuale è praticata in genere da operatori volontari che hanno seguito dei percorsi formativi su argomenti in ambito medico, giuridico, sociale, sessuologico e etico, e che hanno sviluppato anche una grande sensibilità verso gli altri e ovviamente hanno un'apertura nei confronti della sessualità. Questi requisiti sono quindi alla base per l'esercizio di questa professione figura alle persone con disabilità, di riscoprire quindi in loro, nel proprio corpo, come una fonte di piacere e non solo di sofferenza e disagi quotidiani, attraverso il contatto, le carezze, il massaggio, gli abbracci o anche semplicemente la presenza, l'affetto e l'umanità. Quindi l'assistenza sessuale, in base alla propria formazione, sensibilità e disponibilità, può contribuire a far riscoprire tre dimensioni dell'educazione sessuale. Una è quella ludica, quindi scoprire il proprio corpo, relazionale, scoprire il corpo dell'altro, ed etica, scoprire il valore della corporalità. Ne esistono in Italia? Allora, in Italia non esistono perché non esiste ancora questo ruolo a livello legittimo. Okay. Ci sono delle persone, io ne ho parlato su un articolo che ho inviato al Fatto Quotidiano, io ho fatto un'intervista ad una ragazza che ha avuto un'esperienza molto, che si avvicina molto a quello che dovrebbe essere l'assistenza sessuale, e lei vorrebbe fare questa cosa, però è chiaro che in questo momento non ci sono corsi e non c'è questa figura, e io sto lottando e combattendo perché questa cosa avvenga. Ci sono dei percorsi formativi che avvengono a due livelli, parlo delle altre nazioni. Ad esempio, quale nazione? In Svizzera, Germania, Scandinavia, Olanda e alcuni stati in America come in Florida. Sono dei corsi che sono 600 ore di corso, in cui ci sono ovviamente anche questioni psicologiche e questioni anche mediche, perché si deve sapere come comportarsi. Quindi, ogni tipo di disabilità, e parlo anche di disabilità di tipo psichico, una persona normodotata Naturalmente che però ha dei problemi di relazione dati dal suo handicap, quindi non è facile in quel caso, anzi è ancora più difficile, non si sa nemmeno poi fino a che punto lui andrà, semplicemente magari una persona che ha bisogno di avere un contatto fisico, una persona che gli stia vicino, gli faccia capire alcune cose, gli insegni alcune cose rispetto al suo corpo, che non sempre i genitori se la sentono, hanno gli strumenti giusti, hanno la giusta libertà di pensiero per poterlo fare. Qual era la domanda che volevi fare al professor Iannini? No, in realtà non era una domanda, era soltanto una piccola, piccolissima osservazione, perché si parlava del diritto della sessualità. Io in realtà, quando ho iniziato questa battaglia, mi sono detto, forse più che un diritto alla sessualità, io non credo che sia proprio un diritto il sesso. Credo però che la possibilità di scelta, questa sì che penso che sia un diritto. Io sinceramente non voglio convincere nessuno, e forse non mi interessa neanche tanto sapere se le persone sono concordi o meno su questa figura, se la ritengono positiva o negativa. Io voglio principalmente che le persone siano concordi che ogni essere umano in una nazione che si dichiara democratica deve avere la possibilità di scelta. In questo momento in Italia questa possibilità non c'è, e io sto facendo questa battaglia per questo principale. Fermati un attimo, Emanuele Iannini. Ah, mi sembra una puntualizzazione assolutamente intelligente, infatti il diritto è il diritto di scelta, sia anatema nei confronti di chi vuole imporre un modello diciamo di sessualità comunque agita. Ci sono tantissime realtà dove la sessualità viene sublimata in altre dimensioni, ci sono tantissime situazioni in cui con come dire, scienza e coscienza si rinuncia o si fa altro, quindi sono perfettamente d'accordo, il diritto è un diritto di scelta che è tutt'oggi negata. Tu che sei del campo, sì, è assolutamente improbabile, impossibile che fra le tante qualifiche professionali nel campo paramedico dell'assistenza alle persone con handicap possa esistere l'assistente sessuale alle nostre latitudini? Ad oggi lo è perché ad oggi fondamentalmente tu all'inizio della trasmissione hai detto separiamo la cosa rispetto alla prostituzione, ma in realtà il nodo della gestione del proprio corpo in cambio di denaro in realtà è comunque presente, non è un fantasma che ci sta, diciamo, nei nostri discorsi facciamo finta che non ci sia, ma in realtà c'è. Cioè io posso avere un terapista che arriva fino all'anca o fino al ginocchio, appunto un problema al menisco, ma non può salire nelle zone innominabili. E questo è, infatti è la realtà, tanto è vero che le 58 terapiste sessuali, assistenti sessuali che abbiamo intervistato, una ragazza si è laureata poco fa con una tesi proprio dedicata a questo nel mio corso di laurea, una tesi che, di cui sono stato relatore, è riuscita a intervistarne 58 donne che fanno appunto questo lavoro, cioè sono delle escort con una dedicata, come dire, sezione del loro lavoro proprio a questi aspetti. Dico anche come si chiama Deborah Galli, perché ho visto la sua tesi, è uno dei lavori più esaustivi e seri che ho visto pubblicati. È stata veramente una ragazza molto in gamba, perché ha accolto questa proposta che gli abbiamo fatto di occuparsi di questo tema sconosciuto, nessuno l'aveva fatto fino a questo momento, e l'idea è quella poi di andare avanti e di pubblicare qualche cosa di ancora più articolato. Beh, però ecco una cosa che Deborah ha tirato fuori, che non è molto lontano dal 50% la risposta di chi dice ho deciso di intraprendere questo tipo di lavoro per soldi, cioè soltanto la metà lo usa, come dire, il criterio del denaro come la molla fondamentale per fare un lavoro, che però, diciamo, è un criterio che vale per l'ingegnere e vale per... Diciamolo francamente, Emanuele, se una persona decidesse in autonomia di fare la prostituta, avrebbe molta più convenienza e molto lavoro più facile a farla per signori attempati con poche pretese per i quali non ci vuole assolutamente nessuno studio e nessuna formazione. Fermo un attimo, Franco Bonprezzi, buongiorno, giornalista a rotelle, come si definisce, blogger di Invisibili sul Corriere.it. Franco Bonprezzi, tu... Diciamo che noi, visto che siamo quasi coetanei, apparteniamo a un'altra generazione. Dal tuo punto di vista, come si affronta il problema e come l'hai affrontato te? È storico ormai. Io l'ho affrontato a 20 anni, tenendo conto appunto che i miei 20 anni erano alla fine degli anni 60, i primi anni 70, esattamente come si diceva adesso, con l'unica possibilità di scoprire il sesso che era attraverso l'incontro con una prostituta. L'ho anche scritto nel mio libro Io sono così, l'ho raccontato credo con la massima delicatezza possibile perché è stata un'esperienza molto bella, per fortuna mia mi è andata bene. E ovviamente una cosa che ho poi rivelato ai miei genitori soltanto molto tempo dopo. Il problema è che a distanza di tanti anni il tabù è praticamente identico, e questo mi fa un po' effetto perché io adesso ne ho 60 e vedo che il tema è esattamente dove l'avevo lasciato da ragazzo. Non è cambiato nulla negli ultimi 20 anni. Ma è cambiato poco. Perché è cambiato poco? Prima di tutto perché il sesso comunque nel nostro paese è un tabù di per sé. Peggio, l'efficienza sessuale, l'estetica, l'ansia da prestazione hanno portato il sesso a essere quasi uno sport, una cosa che si fa quando si è in grande forma. Questo allontana ancora di più, se possibile, la sessualità dalle persone con disabilità. E questo è un bel problema perché, chiaro, qual è il vero problema? Che una persona con disabilità vive il sesso come ossessione, non come desiderio, come ossessione perché non ci arriva se ha semplicemente una disabilità fisica, figurati poi se c'è una disabilità mentale, cognitiva, figurati ancora di più se è una donna, tema che è arrivato trasversalmente, ma come vedi anche qua le interviste della ragazza che ha fatto la tesi sono tutte comunque ad assistenti sessuali donne, e anche questo è un bel problema. Non capisco perché, c'è comunque un problema culturale. E devo dire che molte ascoltatrici, mi arrivano molti messaggi, certo, mi pongono questa domanda. Perché ma parlate soltanto... parlare dell'omosessualità? Beh, perché non ci sono persone disabili? Ho una persona che ce ne parlerà adesso nella terza parte della trasmissione, proprio il problema specifico, visto che è un tema molto all'attualità, vale anche per il mondo della disabilità. Sentiamo Wilma. Wilma, buongiorno. Buongiorno. Tanto Wilma. Wilma, mi scusi. No, beh, niente, complimenti la trasmissione, saluto lei e i suoi ospiti. No, io ho avuto la mamma e ho anche lavorato in una casa di riposo. La mamma con l'Alzheimer, quindi ho visto tante situazioni molto particolari a livello di sesso praticamente, però non c'era, non so, due persone che si trovavano, però i figli a quel punto lì cercavano di dividerli oppure facevano pressione sugli operatori per cui venissero divisi, venissero controllati. Non, cioè in un luogo dove stanno degli anziani, gli anziani che familiarizzavano fra di loro venivano impediti ad avere una loro vita anche sessuale. Cioè a livello di vita sessuale poi, e quindi venivano divisi, ma non c'era la preparazione secondo me più che altro. Cioè erano spaventati dal fatto che degli anziani ancora avessero pulsioni sessuali. Esatto, sì, specialmente nel reparto Alzheimer dove praticamente si regredisce, dove non si ritorna ragazzini, però insomma gli impulsi forse più prima, cioè non scompaiono. Ecco, lo sa perché è importante, Wilma, esatto, quello che dice? Perché allarga il tema, che tutti pensano, quando parliamo di disabili parliamo di una categoria che nasce e muore con il suo problema. Disabili si diventa, chiunque di noi può diventarlo, qualunque nostro genitore potrebbe, non è augurabile, ma potrebbe accadere, e molte percentuali accade, avere l'Alzheimer, e a quel punto ci si trova un bambino da dover gestire, che, a cui rimane però questo istinto. Wilma. Si motiva che evidentemente è l'unica cosa bella che gli rimane nella vita, oppure che riesce ancora a goderla, perché il mangiare è bene o male, o che sia buffo che non mangia, il parlare cioè non parlano, oppure parlano di cose magari di anni addietro. Però gli va ancora di fare l'amore. Però di fare l'amore sì, cioè, però non avevano, cioè cercavano proprio di dividere, di fare questo. È uguale anche nella casa di riposo normale, cioè o che la persona anziana riusciva ad andare da queste prostitute ancora magari di una certa età e che condiscendevano a questa persona, ma quando arrivava il momento che questo era allettato, poi in carrozzina e non aveva più la possibilità di andare lui da questa persona, nessuno chiamava la persona per venire lì e non c'era un luogo dove potevano appartarsi, anzi il mattino quando c'è l'alza bandiera, diciamo che tu vai là per lavarli, c'è gente che gli una sporcaccione, ma sei un po'... Cioè faccio sentire sensi di colpa al povero signore anziano che aveva la sua erezione mattutina e di cui avrebbe voluto avere essa. Qua c'è una scena bellissima in un film che cito a memoria, Brutti, sporchi e cattivi. In un ospedale per anziani appunto c'è l'anziano che chiede alla giovane infermiera: dai ti prego fammi quel favore. Lei dice: uffa basta, sempre sta storia così. A un certo punto la chiama l'anziana suora tedesca e dice: no, non ti preoccupare, ci penso io, vai via. Dando l'idea che comunque era un problema che si affrontava quando ancora c'era un approccio naturale a questo tipo di naturali espressioni. Oggi che è tutto medicalizzato, anche la pulsione sessuale naturalmente si fa prima dire vergognati brutto vecchiaccio, perché la mattina ce l'hai dritto. 800240024, oggi parliamo della sessualità delle persone non perfettamente abili. Abbiamo iniziato parlando in generale la disabilità e della figura dell'assistente sessuale, la terapista sessuale. Siamo arrivati alle persone anziane, malate di Alzheimer, che mantengono ancora un ricordo vivo e anche piacevole della loro sessualità giovanile. Marisa, buongiorno. Buongiorno. Io mi complimento ancora con il problema che lei tratta in modo così chiaro, perché non è conosciuto, io credo, perché ci sono ancora tantissimi pregiudizi. Nel messaggio appunto ricordavo... Cioè lo conosce chi lo vive, non è che non è conosciuto, e se ne parla con grande difficoltà. Io spero di riuscirne a parlare con leggerezza. Sì, ma le persone che non lo vivono e che non lo conoscono hanno ancora moltissimi pregiudizi al riguardo. Ritengono che le persone non abbiano appunto diritto alla sessualità. Io ho una lunga esperienza infermieristica e anche fisiochinesioterapica, e ricordo, ma già parecchi, alcuni decenni fa, che c'erano le mamme che praticavano la masturbazione ai propri figli. E io questo lo sapevo perché a volte ricevevo tra i pianti le loro confessioni, se così si può dire. Sono sempre stata una persona molto aperta. Così come in anni ancora abbastanza recenti, io vedevo l'atteggiamento che alcune persone, alcune inservienti avevano in modo molto negativo nei riguardi degli anziani. Ricordo la storia di una vecchia coppia, una piccola casa di riposo, non dico il nome, io allora ero direttrice di una scuola per infermieri professionali che era localizzata proprio sopra questa casa di riposo. Una volta una coppia di anziani dolcissimi scapparono, no? Fecero la fuga e poi li ripescarono naturalmente, li tenevano divisi e quello che faceva soffrire era che a volte questa donna dolcissima, si chiamava Natalina, alcune inservienti dicevano: guarda che lui se n'è andato via con una bionda, se n'è andato via con un'altra, cioè mancava anche questa sensibilità che per loro era dolorosissima. Quindi mi viene da capire, Marisa, che al di là delle raffinate sensibilità individuali che ha lei, che hanno altre persone che hanno telefonate, in realtà il problema, proprio perché non se ne parla, proprio nascosto, viene risolto con palliativi a volte anche abbastanza penosi, come la madre che si occupa personalmente dello sfogo sessuale del figlio. Perché? Perché non ha struttura, non ha possibilità, non ha modo, non ha cultura per capire che in realtà ci dovrebbe essere, dovrebbe alzare la testa, dovrebbe esserci qualcuno che si occupa di quel problema, che è di lecita soddisfazione del proprio figlio. Molto velocemente, Giovanni Molaschi, giornalista freelance, che ha pubblicato un articolo su Di Donna riguardo a un aspetto particolare di questo problema. Sì, buongiorno. Sì, Giovanni. Sì, no, sentivo le testimonianze che appunto sono state date prima di me. Volevo aggiungere appunto l'esperienza che mi era stata raccontata da uno dei miei intervistati, che a un certo punto fa un incidente, si trova a fronteggiare in età matura una disabilità che non aveva mai contemplato nella propria esistenza, e deve discutere la propria sessualità, che fino a quel momento era stata, come dire, maschile, classica, e in quel caso si è fatto aiutare da una coppia lesbica per capire come le donne amano le donne, perché in quel momento la sua fisicità maschile in realtà, come dire, era riconducibile a quel mondo che lui fino a quel momento non aveva esplorato. La disabilità, soprattutto, come dire, quando va a toccare le sfere omoaffettive, omosessuali, è ancora un tabù doppio, perché io adesso sto lavorando su un pezzo riguardante i disabili omosessuali che esistono in Italia, come esistono nel mondo. Beh, esisteranno sì, come esistono in tutte le categorie, certo, chiaro, però vedi, è, stiamo ancora sollevando un aspetto ancora più nascosto nel già nascosto problema della sessualità dei disabili. Il disabile, quando ha un suo desiderio omosessuale, ci si trova ancora una montagna ancora più difficile da scalare rispetto a quella che si potrebbe trovare un qualsiasi essere umano. Torno indietro con gli ospiti velocemente, faccio una domanda a ognuno, vediamo se riusciamo a concludere in 2 minuti. Franco Bonprezzi, velocemente. Sì, e vedi che è diventata complessa la situazione negli ultimi decenni. Allora, guarda, io sintetizzerei questo: è un diritto la sessualità, ma non è un obbligo riceverla, e questo è questo ruolo diseguale tra chi cerca sesso e affettività sessuale, di questo parliamo, non di amore, si trova sbilanciato, perché non può pretendere che questa prestazione arrivi. E credo che per la nostra cultura, del nostro paese, ci vorrà ancora molto tempo perché anche un ruolo come quello accennato dell'assistente sessuale trovi poi una sua connotazione pratica e realizzabile in maniera concreta. Massimiliano Olivieri, ti ha aggiunto qualcosa a quello che hai sentito questa mattina rispetto al quadro che tu già ben conosci? Io, se non ti dispiace, vorrei sottolineare più che altro il fatto che in Italia in questo momento ci sono persone che stanno realmente cercando di fare questa figura anche qui nel nostro paese. Quindi ci stanno cercando. Allora scusami, Emanuele Iannini, queste persone che avrebbero questo desiderio, hanno qualche struttura concreta, reale, università, ospedale, essere umano come Emanuele Iannini a cui poter fare riferimento? Beh, a parte appunto chi si occupa di questo, come nel mio caso, temo proprio che non ci sia. Una piccolissima battuta finale è venuta un pochino fuori, ma lo vogliamo dire in conclusione perché credo sia importante. Nella mia esperienza, quelle persone che sono partite dalla loro disabilità hanno trovato il coraggio di vivere la sessualità in questo modo, forse un pochino surrogato, ma comunque estremamente intenso. Chiudi. Ne sono tornate con una grandissima felicità umana e interiore. E spero che sia la stessa felicità che possa io essere disperatamente riuscito a trasmettere questa mattina. A domani.